Vabbè, ho detto non c'è tempo da perdere, ciao. Pronto. Vabbè, non rompi i coglioni! Cosa cazzo vuoi? Ai giardini, cioè tu i cavalieri padre! Guarda che stanotte ti scude per e sono io, hai capito? Che non ti coglioni! Beh, cosa cazzo vuoi? Toretto, dimenticati il mio numero, va bene? Va bene adesso? Pronto. Devo aspettare una telefonata, va bene? Va bene? Ho detto, cosa cazzo vuoi? Vabbè, vabbè, non mi rompi i coglioni! Non vuoi finire di rompere i coglioni? Eh? Non vuoi finire? Ma vaffanculo! Dagli a quella bagnarsi tu madre! Pronto? Che? Che? Vaffanculo! Pronto? Mia cavallo? Cosa cazzo vuoi? Mia cavallo, sì o no? Pronto? Mia cavallo? Ma vuoi finire il rompi i coglioni? Ma vuoi finire di rompere? Eh? Cosa? Perché non vai a rompere con le lune tua madre? Ti blocco il telefono. Pronto. Sono Francesco. Cosa cazzo vuoi? Culo. Pronto. Ma perché non ti ammazzi, brutto frocio, per culo?